Pubblicato nel mese di novembre 2016 sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia di Luca Giambonino dal titolo Ode a Cerbero. O Cerbero, guardiano dell'Ade, ai tuoi occhi nulla sfugge di quelle lande infinite e sotterranee, lande rupestri desolate a cui strane figure s'aggrappano arrancando e camminando lente verso una luce che viene di là. Là in fondo, e laggiù Caronte rema lentamente verso riva.